un fiore per coltivare ogni mia speranza del cuore in questa vita reale. Un fiore per coltivare ogni mia speranza del cuore in questa vita reale. In questa vita reale. Sono eco e sbadiglio di un orrido sbaglio, riconducendo incertezze fragili con il senso pieno di nuovi compiuti doni. La vita nella sua massima accezione, trovando irta salita, salendo le scale del cuore. Salendo le scale del cuore, errori commessi, rovine d'anima, con palazzi dismessi, riarmo lento, profumo d'assi, tra le mie mani domani di speranza, riardo d'assenza, della grande verità nei miei sogni, trovando gravità in gente con cuori degni. Errori ricuciti, restaurazioni di bisogni delle fortezze, grandezze d'animo tra le parole scritte, tra le mani, il domani di pienezza, piangendo lo ieri, ignoto dell'insicurezza dei miei sguardi, trovando volo in profumi di eleganti dardi. Sono eco in sbadiglio di un orrido sbaglio, riconducendo incertezze fragili, con il senso pieno di nuovi doni, compiuti doni. Compiuti doni, nuovi doni, la vita nella sua massima accezione, trovando irta salita, salendo su per il cuore. Errori, malincuori, i denti mordono, stridendo labbra, insanguinando la febbre tra i miei gesti di un domani migliore, soffro stupide vesti di troppa dolcezza, di parole, di musica, trovando sofferenza di una strada lirica. Sono eco in sbaglio di un orrido sbaglio, riconducendo incertezze fragili con il senso pieno di nuovi compiuti doni, la vita nella sua massima accezione, trovando irta salita, salendo su per le scale del cuore, su per le scale del cuore. Errori, malincuori, denti mordono, stridendo labbra, insanguinando la febbre tra i miei gesti di un domani migliore, soffro stupide vesti di troppa dolcezza, di parole, di musica, trovando sofferenza di una strada lirica. Sono eco in sbaglio di un orrido sbaglio, riconducendo incertezze fragili con il senso pieno di nuovi compiuti doni, la vita nella sua massima accezione, trovando irta salita, salendo su per le scale del cuore. Su per le scale del cuore. Ma ora cerco soluzioni, venti buoni per nuove armi costruire, per salvare in tasca verità, piene di un futuro, di gioie e salita meno irta, di materia certa, per costruire solide certezze per un'anima meno sofferta. Meno sofferta. Meno sofferta. Un fiore per coltivare ogni mia speranza del cuore in questa vita reale. Sono eco in sbaglio di un orrido sbaglio, riconducendo incertezze fragili con il senso pieno di nuovi compiuti doni, la vita nella sua massima accezione, trovando irta salita, salendo da su dal cuore, su dal cuore.